e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici della Rosa Purpurea, buon settembre a tutti, questa è la Rosa Purpurea, questa è l'ora di cinema di Radio 24. Primo weekend di settembre e settembre nel cinema significa sempre e solo Mostra del Cinema di Venezia, ma significa anche in realtà ritorno dei grandi film, dei blockbuster della stagione, ritorno anche dalle ferie, ai noi, per tante persone, quindi ritorno anche al cinema e ritorno di una proposta cinematografica accattivante. Anche se, come vedremo, questa settimana non si discosta molto come caratteristiche dalle ultime di agosto, cioè un grosso titolo che dovrebbe fare incette e piazzarsi in testa alla classifica, parliamo di Batman, e poi tanti piccoli titoli usciti tra l'altro da tanto tempo nei rispettivi paesi e a livello internazionale. Forse dopo, diciamo a metà di settembre, arriverà un po' più di corpo della distribuzione cinematografica. Parleremo di Venezia in questa puntata, parleremo anche di alcuni di questi film in uscita nelle sale italiane, quelli di cui non abbiamo parlato, non abbiamo fatto anticipazioni nelle puntate, nella puntata della scorsa settimana, quando chi ci ha seguito sa, abbiamo anticipato Monsieur Lazare, abbiamo anticipato El Campo, abbiamo anticipato soprattutto Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, che è uscito proprio un paio di giorni prima del classico fatidico venerdì. Tra l'altro, come sapete, da ottobre succederà che il giorno delle uscite cinematografiche sarà il giovedì, è una sorta di rivoluzione epocale per la distribuzione italiana. Insomma, andiamo con ordine, riepiloghiamo nei nostri titoli di testa i contenuti di questa puntata. Mostra del cinema di Venezia, i film più attesi, i personaggi, le novità, dalla voce di critici e giornalisti in Laguna. Dalla cura dimagrante del programma firmato Barbera al nuovissimo mercato del film. Mezza dozzina di nuovi film in sala, capitanati dall'Asso Pigliatutto, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. Fra le novità consigliate, La Faida, di Joshua Marston, film che racconta il desiderio di emancipazione di una generazione di giovani albanesi, frenati però da tradizioni ancestrali. Numi Rapaz, star a Venezia nel film Passion di Brian De Palma e in sala con il thriller svedese Baby Call. Una madre in fuga col figlio da un marito violento riceve segnali inquietanti dalla radiolina con la quale sorveglia il sonno del bambino. Un po' Frankenstein, un po' Pinocchio, al femminile. È Eva, science fiction spagnola, esordio alla regia di Kike Maio, un ingegnere e il suo sogno di creare un robot bambino con un cuore e un'anima, e una ragazzina che nasconde un grande segreto. E allora, puntata splittata in due, Venezia prima, le novità al cinema dopo. Cominciamo quindi con la Mostra del Cinema di Venezia, che si è aperta il 29 di agosto, ormai da qualche giorno. Come sempre, la prima puntata della Rosa Purpurea veneziana arriva in un momento in cui è ancora difficile cominciare a trarre bilanci, si sono visti pochi film, si sono mossi pochi personaggi, però insomma cominciamo un po' a inquadrarla questa mostra. È quello che vogliamo fare un po' in questa puntata, con l'aiuto di alcuni amici, grandi professionisti, ed è già al telefono con noi Leonardo Gandini, storico e critico del cinema, che si trova appunto in Laguna per la mostra. Ciao Leonardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, adattamento, primi giorni di festival, il ritorno di Alberto Barbera alla direzione, un ritorno che ha portato anche, come dire, a un serio dimagrimento e anche ben accetto, mi pare, dalla critica e dagli operatori del festival, del numero di proposte contro l'ipertrofia della gestione mulleriana, che ha portato a una diversificazione anche del tipo di proposta. Sì, certo, si guarda in giro anche agli orizzonti del cinema asiatico, di tutto quello che è stato il lavoro fatto appunto in questi anni, ma magari con un po' più parsimonia e cercando anche sempre un collegamento con il pubblico del festival. Insomma, quali sono queste, sono altre, quali sono le caratteristiche principali di questa nuova mostra Barbera Bis, chiamiamola così, dopo questi primi giorni di festival? Ma guarda, direi che il dato caratterizzante sicuramente è la quantità considerevolmente inferiore di film presentati. La gestione Barbera è una gestione che si basa su una forte preselezione, per cui ci sono film che sono piaciuti molto a tutto il comitato di selezione, questi film, dovendo rispondere a dei criteri quasi di unanimità nel gusto, sono poi alla fine inferiori numericamente ai film della gestione Müller. In compenso ci sono più occasioni per vederli. Quindi diciamo che la gestione Müller in qualche modo prevedeva una scorpacciata, accumulando e impilando quantità industriali di film che il cinefilo poi doveva selezionare basandosi sull'oggettiva impossibilità di poterli vedere tutti o quasi tutti. Qua invece la selezione viene fatta in misura maggiore a monte, per cui c'è un numero di film inferiore e il cinefilo ha più possibilità di vedere questi film perché sono maggiori il numero, sono maggiori le repliche dei film selezionati. Questa mi sembra la principale, proprio dal punto di vista della politica culturale, la principale differenza. Cioè la gestione Müller è simile a un ristorante con un numero infinito di pietanze tra cui scegliere, la gestione Barbera è simile a un ristorante che ha 5-6 primi, 5-6 secondi e tu tra quelli devi scegliere. Ecco, allora a proposito di ristorante, rimanendo in metafora, quali sono i piatti forti, quelli che più ci si attende? Tu sei un grande esperto di cinema americano, per esempio, qual è la presenza del cinema americano quantitativamente e soprattutto qualitativamente quest'anno? Guarda, io diciamo sono tre i film per i quali mi sono mosso volentieri dalle spiagge dove ero spaparanzato sino a un qualche giorno fa. Uno è The Master di Paul Thomas Anderson, che è uno dei registi di punta del panorama americano contemporaneo, ed è un film che lui ha girato in questo formato assolutamente obsoleto da musical anni 50, cioè un formato a 70 mm ed è quindi il classico film che bisogna vedere su uno schermo adeguato, bisogna vedere in sala e su uno schermo adeguato. Per rimanere ad una definizione a te cara, Franco, è un film da grande schermo, e lo schermo è veramente grande quando il formato è in 70 mm, senza contare che è un film di cui si è chiacchierato molto, perché vuole essere un film che si riferisce in maniera polemica a questa setta di Scientology molto popolare negli Stati Uniti, ed è un film che ha due grandi attori come protagonisti, cioè Philip Seymour Hoffman e River Phoenix. Joaquin Phoenix, scusami. Per quanto riguarda invece gli italiani, direi che la menzione d'onore va alla Bella Addormentata di Marco Bellocchio. Anche questo film accompagnato da mille polemiche, perché si rifà al caso Englaro, che è un caso spinoso che ha attraversato e ferito le coscienze degli italiani poco tempo fa. È un film per cui la Friuli Venezia Giulia Film Commission ha poi ritirato a un certo punto il finanziamento, ritenendosi ferita dalla scabrosità del tema. Questa cosa ha creato una vasta eco di commenti non lusinghieri sulle modalità con cui vengono pubblicamente finanziati i film, si è parlato di censura, insomma è un film che si porta dietro una bella scia di polemiche, e poi comunque al di là delle polemiche è un film di Marco Bellocchio che rimane nel panorama italiano, a mio parere, uno dei pochissimi cineasti attenti non a quello che racconta, non solo a quello che si racconta, ma attento soprattutto a come lo si racconta. Quindi un regista che ragiona per immagini, che si pone dei problemi di messa in scena a partire dall'oggetto del racconto. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, le notizie sul traffico sono quelle che avete sentito, le notizie sul traffico dei film a Venezia proseguono invece con il nostro collegamento con Leonardo Gandini, del quale abbiamo parlato di due film sul tre che l'hanno strappato dalle sue spiagge. L'ultimo di cui abbiamo parlato, il film di Marco Bellocchio, Bella Addormentata, sarà nelle sale italiane dal prossimo 6 settembre, cioè dal prossimo fine settimana. Peraltro ne parleremo più tardi, sviscerando meglio la vicenda. Questa è una delle mostre del cinema recenti con il minore impatto diretto sul botteghino, con film che durante queste due settimane, durante questi due weekend, escono direttamente in sala arrivando da Venezia. Sono veramente pochi quest'anno, forse mai erano stati così pochi, ed è un tema sul quale chiaramente interrogarsi. Si tratta di film ovviamente che durante l'anno poi troveranno la via della sala in gran parte, ma sembra quasi che l'effetto Venezia sia stato forse considerato poco dai distributori. Ne avremo modo di parlare. Io sono in credito di un altro consiglio, di un altro film da Leonardo Gandini, storico e critico del cinema. Leo, ovviamente da uno come te non ci si poteva che aspettare Brian De Palma. Sì, il terzo film è sicuramente Passion di Brian De Palma, thriller erotico, con il quale De Palma ritorna un suo antico amore, dopo le parentesi peraltro felicissime di cinema politico di Redacted, protagoniste Rachel McAdams e Naomi Rapace, cioè Rapace, se la vogliamo dire all'italiana. Come dire, binomio curioso, perché una viene dai film di Woody Allen, l'altra dalla Millennium, dalla versione scandinava della Millennium Trilogy, quindi attrici di latitudini molto diverse, ma che sono sicuro De Palma riuscirà a utilizzare al meglio. Questi mi sembrano i tre titoli di punta. Poi c'è anche da dire che i festival sono un po' come le competizioni calcistiche, cioè c'è sempre quello che non ti aspetti, il film che non ti aspetti, la sorpresa che non ti aspetti, ed è anche bello che sia così. Il film di cui non hai mai cui il regista non hai mai sentito nominare, che di colpo si rivela un ottimo film, un film sorprendente, speriamo almeno, ecco. Me lo auguro, perché rimanere al Lido di Venezia per 8 giorni, 9 giorni, senza essere piacevolmente sorpresi da ciò che si vede, non dirò tutti i giorni, ma almeno un giorno sì, un giorno no, non è un'esperienza da augurare, ecco. Potrebbe essere molto umido, diciamo così. Esatto, comunque sia, diciamo che sulla carta, questa è stata un po' la reazione nel momento in cui i film sono stati presentati. Si tratta di un'edizione piuttosto interessante, con anche molti spunti spettacolari, e questo sicuramente era stato salutato, ricordo ormai aneddoticamente l'applauso che ha colto la dichiarazione di Barbera sul film a sorpresa, quando ha detto non sarà un film asiatico. C'è stata una sorta di standing ovation da parte del pubblico della conferenza stampa, questo per dire anche in maniera forse un po' grezza, se vogliamo, ma insomma non lontano dal vero, che forse il fatto di avere un po' anche reinquadrato sull'Europa, sull'Italia, sull'America del cinema che conta, il proprio obiettivo ha portato a una mostra che, ripeto, ne parliamo dopo pochissimi giorni, sembra poter avere un appeal sicuramente maggiore. Hai parlato di Naomi Rapace, tra l'altro è interessante il fatto che la vediamo in sala questa settimana con un film che si chiama Baby Call, ne parleremo più tardi, appunto, fra le proposte cinematografiche. Grazie a Leonardo Gandini, buon lavoro in quel di Venezia. Arrivederci, grazie. E benissimo, allora abbiamo inquadrato con Leonardo Gandini un po' la parte cinematografica, strettamente cinematografica del festival, le sue caratteristiche, la Mostra del Cinema di Venezia. Mostra del Cinema di Venezia che, fra le novità di quest'anno, di questa nuova gestione Barbera, porta con sé il mercato. È un aspetto di cui si parla da quando io frequento la Mostra del Cinema di Venezia, ovvero da più di 20 anni. Venezia non ha un mercato, Cannes ha un mercato, Berlino ha un mercato. Che cos'è il mercato? È il posto in cui, almeno anticamente, perché oggi le nuove tecnologie hanno anche un po' soppiantato questa necessità, però solo in parte, i distributori, i produttori dei film internazionali, soprattutto di quelli che sono presenti alla Mostra del Cinema di Venezia, ma non solo, mostrano questi film a chi li deve acquistare, chi li deve distribuire nel proprio paese, che non è solo l'Italia, ovviamente, che è uno spettro più ad ampio raggio, più internazionale. Ora, questo mercato da quest'anno a Venezia c'è. Si era vociferato tanti anni fa di un possibile avvicinamento di date del mitico MIFED di Milano, che fu il più antico mercato del cinema del mondo, durò praticamente 70 anni, poi finì la sua vicenda, ma il MIFED era a ottobre, Venezia era a settembre, questo avvicinamento molto all'italiana non si è mai fatto, diciamo così. Adesso Venezia cerca di dotarsi di uno strumento industry, di uno strumento business, per promuovere la propria importanza, i propri film al di là dei confini. E di questo noi vogliamo parlare con Stefano Radice, che è un collega, un giornalista, ma anche un grande esperto di questo aspetto industry del cinema internazionale, con la sua presenza, diciamo, alla rivista Box Office. Saluto Stefano, che è in collegamento da Venezia. Buongiorno a tutti. Ciao Stefano, ciao. Allora, abbiamo inquadrato un po' quello che è il tema. Venezia si dota di un mercato, quali le dimensioni, quali gli obiettivi di questo primo anno almeno? Gli obiettivi del primo anno sono quelli di riuscire a creare uno spazio che appunto a Venezia, così strutturato, non c'è mai stato, in cui i compratori e i venditori si possono incontrare per far business attorno ai film che vengono presentati al festival. L'idea è quella di creare e dare visibilità soprattutto ai film che passano alla manifestazione, dando particolare attenzione ai film europei soprattutto, creare mercato e circolazione, circuitazione internazionale a film che grazie al festival hanno visibilità e quindi possono suscitare l'interesse dei compratori internazionali che a Venezia bene o male gravitano da sempre, solo che non hanno mai avuto un luogo, appuntamenti, spazi, aree per potersi incontrare in modo strutturato. Questa volta Venezia ci prova, Barbera ha fatto autocritica perché ha detto che durante la sua prima direzione del festival alla fine degli anni 90 gli era stato proposto il mercato, lui aveva detto che luoghi fisici per fare business non erano più indispensabili, adesso ci ha ripensato, visto anche il successo del piccolo mercato di Roma, così come di mercati come quello del Festival di Berlino che citavi tu prima, per non parlare di Cannes, che danno anche un valore aggiunto al festival stesso, vedremo alla fine che risultati si otterranno. Io penso che sia il primo mattone, il primo passo per poter poi avere un domani magari anche un'area più strutturata, senza arrivare agli eccessi di Berlino o di Cannes, che hanno degli spazi, disponibilità di spazi enormi, che a Venezia non ci sono, però comunque dare sempre tramite il mercato un valore aggiunto al Festival di Venezia. Ecco Stefano, in queste prime giornate, in queste prime ore di questo mercato, hai avuto modo di metterci dentro il naso, di vedere come funziona, che tipologia di frequentatori c'è? Deputato è l'Excelsior, è stata attrezzata un'area al primo piano dell'hotel Excelsior, dove transitano tra l'altro anche gli artisti e tutto ciò che gravita attorno a Venezia. Al primo piano dell'Excelsior è stata adibita un'area per convegni, un'area per incontri, soprattutto la Digital Video Library, che darà l'opportunità agli operatori internazionali di poter vedere e recuperare quei film che magari non sono riusciti a vedere in sala, attorno alla quale poi costruire eventualmente un business. È lo sviluppo dell'area industry che era già presente l'anno scorso all'Hotel Excelsior e che quest'anno però è molto più articolata. Il mercato infatti andrà di pari passo con una serie di convegni a tematiche internazionali, come avviene a Berlino, come avviene anche a Cannes, come avviene poi in tutti i mercati, in cui vengono affrontate le tematiche più importanti dell'industria, che l'industria cinematografica sta affrontando, dovrà affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ecco, quanto invece al festival, Stefano, dacci un po' un tuo giro d'orizzonte su quello che ti sembra questo, dalle primissime battute, ma in realtà più sulla carta, certo. Questo festival di Venezia. Ma dunque, è stato molto coraggioso Barbera a diluire un po' il programma, a ridurre i film in cartellone, a puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Poi sulla carta uno può pensare, non so, che il film di Bellocchio possa avere delle credenziali magari per poter vincere, o The Master di Paul Thomas Anderson sembra un film fortissimo, poi bisogna vederli all'atto pratico. Diciamo che Barbera si gioca molto in questo suo ritorno proprio sulla qualità dei film che presenterà. Ha selezionato molto rigorosamente anche i film italiani, meno col bilancino rispetto alla gestione Müller, che cercava di accontentare tutti i produttori e tutti i network italiani. Lui si è speso molto da questo punto di vista. Vedremo alla fine se l'idea della qualità sarà risultata vincente, se veramente i film presentati sono stati di valore artistico più alto rispetto alle ultime edizioni del festival, della mostra del cinema. Ecco Stefano, ti chiedo un'ultima cosa. Dicevamo prima, si tratta della edizione che io ricordi con il minore impatto diretto sul botteghino, più che sul botteghino, sulla sala. Intendo dire, mi è capitato spesso di fare trasmissioni da Venezia nelle quali la gran parte delle recensioni dei film in uscita quella settimana arrivavano da Venezia. Questa settimana non succede affatto, non ci sono film veneziani in questo weekend nelle sale di tutta Italia. Ce ne saranno la settimana prossima, per esempio Bellocchio, ma Bellocchio sono davvero forse è l'unico. Ecco, come mai? C'è forse una sfilacciatura dell'immagine della mostra veneziana? Io penso che è vero quello che dici tu, sono previste poche uscite di film nei giorni del festival. Bellocchio giustamente l'hai citato, esce settimana prossima, però poi subito dopo il festival, tra settembre e ottobre, il programma, i film in programma a Venezia saranno presenti nei cinema. Io penso che per quel che riguarda i film internazionali anche i distributori aspettano di vedere le reazioni della critica, eventualmente le reazioni delle proiezioni che vengono fatte anche col pubblico per poter poi posizionare i film. Teniamo presente anche che settembre, ottobre, novembre sono periodi tradizionalmente densi di programmazioni, densi di film in uscita. Può esserci anche che qualche distributore non voglia bruciare il proprio titolo e cerchi una collocazione più idonea, magari in un periodo di minor concorrenza. Non mancheranno però comunque i film italiani. I film italiani tendenzialmente usciranno abbastanza a ridosso del festival, anche se proprio non nei giorni del festival. Sì, sembra quasi che più che allungarsi la stagione, che è il solito, il consueto pianto anche motivato dei distributori durante, e degli esercenti soprattutto durante l'estate, si sia allungata l'estate, nel senso che anche questo weekend vede il Cavaliere Oscuro, grande blockbuster, come è stato settimana scorsa con Madagascar, che ha fatto faville, come può essere stato anche con I Mercenari 2, eccetera. Cioè l'estate ci ha raccontato, dopo Ferragosto, un grande film blockbuster e un po' di roba che circolava nei cassetti e nei magazzini da un po' di tempo e finalmente trova il modo di uscire. E questa settimana somiglia un po' a quelle, insomma. Speriamo che non sia un allungamento dell'estate, intesa come l'abbiamo sempre intesa l'italiana, perché come sappiamo da altre parti l'estate è una stagione che funziona e come. Grazie a Stefano Radice di Box Office, buon lavoro a Venezia. Grazie a voi. Forti, hai comprato un walkie-talkie? No, non è un walkie-talkie, è un baby call. Mamma. Lo sai che la mamma ti vuole bene e non può vivere senza di te? Sì, lo so, mamma. Allora, questo era Baby Call, questo era una delle clip che abbiamo preparato di uno dei film in uscita in questo fine settimana. Abbiamo detto fine settimana dominato a livello di interesse mediatico dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma anche con una mezza dozzina di nuovi film in sala, molti dei quali, alcuni dei quali, il più importante dei quali, Il Cavaliere Oscuro, abbiamo raccontato la settimana scorsa, ma ce ne sono altri tre di cui vogliamo parlarvi, che completano la squadra delle novità al cinema di questo primo fine settimana di settembre. Novità al cinema che, come dicevo, sono novità fino a un certo punto, tranne Il Cavaliere Oscuro. Gli altri film che arrivano in sala in questo weekend, El Campo e Monsieur Lazare, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e quelli di cui vogliamo parlarvi ora, Baby Call, Eva e La Faida, sono tutti film che hanno almeno un anno di vita, hanno già fatto festival, hanno già vinto premi, quindi, come dire, ancora un po' una sensazione di fine magazzino, che poi dopo si riverserà nelle prossime settimane in qualcosa di più recente. Ciò nonostante, motivi di interesse ce ne sono, forse non proprio dal film con cui abbiamo cominciato questo Baby Call. Abbiamo detto prima Noomi Rapace, che sarà star a Venezia, ma che è anche presente in questo film, forse per lei una sorta di prova d'attrice legata alla volontà anche di uscire dai cliché della trilogia Millennium, di uomini che odiano le donne, qui nei panni di una mamma, di un bambino di 8 anni che sfugge col figlio da un marito, da un padre del bambino molto violento, si rifugia in una casa lontana e così cerca una ripartenza. Di notte, per essere tranquilla sulle sorti del figlio che dorme in un'altra stanza, come fanno tanti genitori, accende questo baby call, questa è quella che noi chiamiamo le radioline, insomma il walkie talkie che permette di sentire quello che succede nella stanza del figlio. E succedono delle cose in questo walkie-talkie. Compaiono segnali piuttosto inquietanti che però rigorosamente, quando la madre si reca a vedere, almeno nella prima parte del film, cosa è successo, scompaiono. Il bambino sta dormendo serenamente, non è successo nulla. Ho sentito dei rumori che non provenivano dal baby call di mio figlio perché lui dormiva. Hai intercettato un altro baby call? Si possono sentire altre persone. Vieni qui, dove siamo? Credi che io stia esagerando? Credo che tu sia una ragazza gentile e sensibile, che però ha dormito poco ultimamente. Come puoi attaccare una sua foto sul muro? È mio padre. Non ricordi che cosa ti ha fatto, eh? E chiaramente le cose evolveranno in dramma, in thriller, forse anche in tragedia. Alcune tracce visibili, che non saranno più solo voci, ma saranno qualche goccia di sangue sui disegni del bambino, eccetera, cominceranno a far pensare che una presenza extraumana, in un certo senso, veramente esista. Di che state parlando? Il nuovo avvocato del suo ex marito vuole presentare ricorso perché sostiene che sia stata ascoltata solamente la sua versione dei fatti. Sapete cos'è successo? Ha cercato di buttarlo dalla finestra. Conosce l'età di suo figlio? Certo, ha 8 anni. Ho chiesto conferma ai servizi sociali e mi hanno detto che Anders ha 10 anni. C'è un errore, crede che io non sappia l'età di mio figlio? Ti è mai capitato di dimenticare dove sei stato? A volte vedo cose che non sono reali. Devo obbedire, se no la mamma si arrabbia. Non devi preoccuparti, la tua mamma è veramente gentile. Non dire niente, o farà di peggio. Tu sei l'unica persona che può salvarlo. E questa è l'atmosfera di Baby Call, dicevamo Nubia La Paz, siamo in collegamento con Boris Sollazzo, peschiamo anche lui in Laguna, la mostra del cinema di Venezia, ma ci facciamo raccontare un po' anche questo film. Ciao Boris! Anche perché questo film, buongiorno intanto Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche perché questo film a Venezia stava anche per l'anno scorso. Esatto, il famoso anno di sabbatico di cui dicevamo esatto. Prima. Ecco, film che tra l'altro, come dire, non è che abbia pienamente convinto, insomma io mi sono fatto l'idea che Nubia La Paz forse abbia due espressioni e non abbia neanche il cappello, per intenderci, cioè mi sembra che un po' il film giochi sui cliché del genere, di Others per intenderci, piuttosto che il sesto senso, ecco, siamo da quelle parti, ma ci siamo solo con lo scheletro, ci siamo solo con la struttura, non ci siamo con la storia, non ci siamo con la trama, non ci siamo soprattutto con la suspense. Pienamente d'accordo, secondo me Nubia La Paz ha due espressioni, una col piercing e una senza, e quindi in questo senso è uscita fuori dalla saga di Larson, mi sembra che stia evidenziando tutti i suoi limiti di attrice, lo vedremo pure in Prometheus, dove non è all'altezza, tra l'altro, con un confronto abbastanza impossibile. E in questo caso Baby Call, tra l'altro, le dà, le consegna in mano una sceneggiatura, un copione, una parte che è davvero difficile da sostenere, perché prende uno spunto che, tra l'altro, Balagherò, in un suo film abbastanza recente, aveva portato avanti in maniera simile, ma molto migliore, che è appunto questo Baby Call, che è un aggeggio in effetti inquietante. A me è capitato di vederlo più volte, ed è strano comunque questo aggeggio da cui escono la voce di un bambino che sta in un'altra stanza. Il punto è che già la sospensione della credulità è altissima nel momento in cui costruisci un soggetto così, così ardito. Se non sei bravo nella gestione della suspense, nella gestione della tensione narrativa, spesso si cade, a mio parere, in un umorismo involontario. Nel caso di Baby Call succede abbastanza spesso, non riesci mai a entrare nell'angoscia che vorrebbero farti vivere. Poi, a mio parere, più si va avanti in un mondo in cui tutto è esposto, in cui quasi nulla è nascosto, più è difficile raccontare queste cose nascoste. Penso a Paranormal Activity, che è piaciuto a molti e che io ho trovato sopravvalutato, perché è sempre più difficile trovare una ragione di orrore che non si vede, ad essere così bravi da raccontarla al cinema. Quindi devo dire veramente, Baby Call mi è sembrato un film assolutamente non all'altezza. Mi ha stupito che fosse stato selezionato a Venezia, mi stupisce adesso che esce in sala. Insomma, più che spaventarvi, rischiate il sonno anticipato. Ecco, tra l'altro vorrei tornare su Nubia La Paz, perché tu hai detto appunto Prometheus, ma anche a Venezia Brian De Palma. Ora, c'è qualcosa di misterioso, qualcuno ogni tanto se lo chiede anche sul web, dietro la sfavillante carriera di questa attrice. Certo, Millennium è stato sicuramente un viatico per conquistare i mercati internazionali, ma poi da qui a essere scelta da cotanti registi e con questa frequenza, insomma, cos'è che c'è dietro il segreto di Nubia La Paz, che non mi sembra neanche un nome che porti frotte di persone al cinema? Ma probabilmente un buon agente, una faccia che soprattutto negli Stati Uniti non si è abituati a vedere e che quindi può essere funzionale in alcuni film, e poi perché effettivamente la saga degli uomini che odiano le donne, come dimostra il remake, ha comunque fatto una certa presa negli Stati Uniti, se non sbaglio l'originale aveva comunque incassato 10 milioni di dollari, che per un film europeo in America è una cifra altissima, quindi credo che sia un po' di fortuna, un ottimo agente e una faccia che potrebbe essere sfruttata molto meglio se ci fosse dietro un talento. Con i suoni a onde corte della lingua albanese siamo a un'altra proposta di questo fine settimana, La Faida, film che porta una regia importante, quella di Joshua Marston, che aveva già firmato l'apprezzato Maria Full of Grace, che adesso racconta la storia di un 17enne alle prese con l'ultimo anno di liceo in una cittadina interna dell'Albania post-comunista dei nostri tempi, tra la relazione con una compagna di classe e un sogno nel cassetto che è quello di aprire un internet caffè, ma purtroppo i suoi sogni di una vita, fra virgolette, normale, i sogni di un ragazzo di 17 anni si scontrano con una faida di famiglia che lo vede direttamente coinvolto e che nel codice balcanico è ampiamente accettata anche dalla legge. È un film sul un presente molto ingombrante e il sogno di un futuro che tarda ad arrivare, questo di Joshua Marston, La Faida. Boris, poche parole per descrivercelo e per dirci se vale la pena del costo del biglietto. Vale assolutamente la pena, a mio parere. Marston, tra l'altro, secondo me fa meglio di Maria Full of Grace, in cui era un po' didascalico, lo è anche qua, ma qui racconta secondo me una storia che prende la memoria, il tempo, come dicevi tu, perché La Faida nasce dal passato, si perpetua nel presente e vuole essere superata in un futuro in cui banalmente in una terra rurale si vorrebbe aprire un centro internet e agisce su un 17enne, cioè su un uomo che si sta formando. Lui racconta questa serenità, questa dolcezza di questo protagonista turbata da qualcosa che sembra allo stesso tempo folle e inevitabile, cioè una sorta appunto come dice il nome Faida, una sorta di vendetta, una sorta di perpetrare il dolore e l'odio che la sua famiglia impone e la sua cultura propone, e questo fa sì che ci si ritrovi con un pezzo di antichità all'interno dell'Europa, con un pezzo di memoria primitiva, violenta, che squassa le nostre coscienze ben pensanti. Devo dire, un film molto bello, molto delicato, questo protagonista molto bravo, e Marston continua ad essere secondo me molto molto bravo a raccontare emotivamente le contraddizioni del nostro tempo, soprattutto in luoghi come il Sud America o come una certa parte dell'Europa in cui ci si divide tra passato e modernità in maniera abbastanza lacerante. Ancora molto molto divaricata, certo. Grazie Boris, ti lasciamo andare a una delle tante proiezioni della Mostra del Cinema di Venezia, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana. Ancora insieme alla Rosa Purpura, questa è la quarta e conclusiva parte del nostro programma. Dobbiamo parlare di un altro film, Eva, fra quelli che compongono il mosaico delle uscite di questo weekend, diciamo così, veneziano, fra virgolette. Prima però diamo un'occhiata a qual è la classifica di partenza, cioè come riparte questo settembre al cinema. Abbiamo evocato prima la grande performance di Madagascar 3, Ricercati in Europa, il terzo episodio della saga animata. Madagascar ha portato a casa un totale di 6 milioni e mezzo di euro nei primi, diciamo, 5 giorni di programmazione, perché è uscito un paio di giorni prima. Nel solo weekend 4 milioni, insomma un film che niente niente, la prossima settimana, dopo il prossimo weekend, troveremo sopra i 10 milioni di euro di incasso. Questo a dire sempre che l'estate è una parola vuota senza i contenuti che sono quelli dei grandi film, e questo grande film ha avuto un impatto importantissimo, così come lo ha avuto, forse leggermente sotto le attese, ma è uscito una settimana prima, appena a ridosso di Ferragosto, I Mercenari 2, che comunque è già a 3 milioni e mezzo. Vedete che i soldi d'estate si possono fare al botteghino con i film giusti. Pensate alla performance di Biancaneve e il Cacciatore, che è una performance totalmente estiva, cioè uscito prima del mese di agosto e ha potuto attraversare con una certa libertà, perché poi di prodotto ce n'era poco e quindi anche con meno concorrenza, tutto il periodo agostano, ed è ormai quasi a 8 milioni e mezzo di incasso. Sono cifre cioè che a mio modo di vedere in autunno questo film non avrebbe mai fatto. E poi quarto posto per un altro blockbuster come The Amazing Spider-Man, che è resistito fino a oggi con 11 milioni e 6 di incasso globale grazie appunto all'estate. Insomma, l'estate è un periodo da blockbuster, è un periodo da film di grande richiamo, di grande cassetta. Poi dopo, dal quinto posto in poi, chiaramente gli incassi sono risibili, sono film che non hanno superato il milione di euro, ci troviamo Bad Time, ci troviamo Contraband, queste chiaramente non sono per forza sottolineature negative sulla qualità dei film, solo che evidentemente l'estate è fatta per quegli altri film lì. Allora dentro con i film di grande richiamo, perché sarà così sicuramente con Batman anche questo weekend, hanno un grosso potenziale in questa stagione. In America, diamo un'occhiata a cosa succede anche in America, dove c'è stato il weekend di agosto con il minore incasso globale, un po' preoccupati anche gli esercenti americani. Comunque The Expendables 2, I Mercenari 2 è primo in classifica, unico film a superare i 10 milioni nel weekend, 13 milioni e mezzo per la precisione. Poi The Bourne Legacy al secondo posto, un'animazione come Paranorman di Chris Butler al terzo posto e poi via via tutti gli altri. Il Cavaliere Oscuro in America sta già imboccando la china discendente, ma udite udite, dopo aver incassato 422 milioni di dollari nel corso del suo sfruttamento. Ebbene, questo allora è il quadro del botteghino italiano e americano. Andiamo a buttarci nell'ultima proposta di questa settimana, si intitola Eva. È incredibile, vero? Cosa vedi quando chiudi gli occhi? Sono soprattutto suoni, sono soprattutto suggestioni quelle che vi abbiamo fatto sentire, più che parole. Eva, un film di Kike Maiglio, con un cast importante che annovera soprattutto Marta Etura, che avevamo visto nel film La pelle che abito di Pedro Almodovar, un film spagnolo. Ora la cosa interessante è la considerazione che gli spagnoli sembrano interessati a ricolonizzare anche una certa fantascienza, dopo aver reinterpretato l'horror e aver creato una vera e propria scuola di genere con i loro grandi registi, i loro grandi film. Ebbene, qui parliamo invece di questioni etiche sotto il profilo e con la lente di ingrandimento della fantascienza, che è un po', se vogliamo, sempre un grande amplificatore delle questioni etiche. Pensate, mi viene in mente un film come Minority Report, come abbia anticipato certi temi legati alla questione della giustizia, eccetera. Ecco, qui invece un ingegnere cibernetico, si chiama Alex, sogna di costruire un robot fornito di cuore e di anima, niente meno, insomma, sostanzialmente di sostituirsi al Padre Eterno. Tornato a Santa Irene, il suo paese, dopo una decina d'anni, ritrova i suoi affetti, riprende i suoi progetti, si stabilisce nella casa paterna e scopre che il fratello David ha una bambina ed è legato a una donna che la cui storia affonda le radici nel passato del protagonista. Questa bambina, Eva, appunto, è una bambina molto, come dire, molto curiosa, anche molto curiosa della professione di Alex, del suo smanettare con computer, con circuiti, con fili e rame per cercare di creare questo robot bambino, sorta di Geppetto con Pinocchio cibernetico, se vogliamo, in un certo senso, no? E presto però Alex comprenderà che niente come sembra, che c'è un grande segreto che Eva nasconde. Questo ci fermiamo qui per onor, come dire, di trama, perché poi la cosa comincia a diventare interessante, intrigante. Diciamo però alcune note in più di questo esordio di questo regista spagnolo Kike Maiglio. Come dicevamo, l'uomo e la macchina, Pinocchio sullo sfondo, se vogliamo, creare un burattino, questa volta cibernetico, che poi respiri, pensi, dorma e viva come un bambino vero. Una fantascienza che sfugge, se vogliamo, dai territori americani, e questo è anche un segnale importante, perché è una storia di quelle che piacerebbero o che sono sicuramente piaciute anche in passato a Hollywood, però invece cinema europeo, tematiche e approccio alle tematiche nettamente europeo, una grande costruzione drammaturgica che pesca, mette le radici, le affonda nei classici della letteratura di questo genere, e soprattutto un finale molto molto thrilling, che aprirà il mondo dello spettatore verso questo scenario, questo ambiente dove c'è un po' del Blade Runner con i suoi replicanti, dove, come abbiamo detto, c'è un po' di Pinocchio, dove c'è un po' del futuro anticipato di tanta fantascienza, di quella che abbiamo amato di più. Un film molto spagnolo anche in certe velature di ironia che si vedono qua e là nei caratteri della bambina protagonista, che è sferzante, tutt'altro che sdolcinata. Ecco, un mondo cinematografico ben costruito in questo film che merita davvero la visione, perché riesce ad avvicinarci a un filone della fantascienza che sembrava un po' smarrito e che è molto bello rivedere ripreso dall'Europa. Come ripeto, dalla Spagna, ancora una volta dimostrando di avere grande cultura cinematografica e anche grande coraggio produttivo, cioè di dare soldi per esordi di questo tipo e poi di portarli a casa anche molto bene. Tutta la questione effetti speciali è affrontata in maniera molto professionale, senza sbavature, con un livello di credibilità che chiaramente lo spettatore non può fare altro che apprezzare. Questo è Eva, il film di Kike Maiglio, ultima delle proposte cinematografiche di questo fine settimana. Ve le riepiloghiamo per comodità: Il Cavaliere Oscuro, La Faida, El Campo, Monsieur Lazare, Baby Call ed Eva, i sei film che compongono la proposta al cinema in questo weekend. Noi li abbiamo suddivisi metà la scorsa settimana per l'importanza e l'ingombro di minuti che Il Cavaliere Oscuro aveva richiesto, e poi metà questa settimana per completare un po' l'offerta. Noi ci avviciniamo verso la conclusione della nostra puntata, di questa puntata della Rosa Purpurea. Io però voglio dirvi prima una cosa: come molti di voi hanno già scoperto, e la cosa ci ha anche sorpreso perché non avevamo ancora detto questa grande novità della stagione 2012-2013, la Rosa Purpurea è sbarcata a sua volta, potremmo dire, su Facebook. Siamo presenti anche sul social network più famoso di tutti. Basta cercarci digitando la Rosa Purpurea Radio 24 ed ecco che esce la pagina della Rosa Purpurea. Cliccate su mi piace e riceverete nella vostra posta elettronica, nelle vostre notifiche, gli aggiornamenti, le scalette in anticipo puntata per puntata. Potrete quindi sapere qualche ora prima, anche un giorno prima, quelli che sono i contenuti della prossima puntata della Rosa Purpurea. Usatela come finestra, come piazza virtuale, scriveteci le vostre impressioni sui film che vedete, su quelli che vorreste vedere, le vostre domande, le vostre curiosità. Non vi giuriamo di rispondere al momento, ma insomma cercheremo di fare tesoro un po' di tutti i vostri spunti, i vostri suggerimenti, e di convogliarli anche spesso qui nella nostra trasmissione radiofonica. Quindi la Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook, siamo presenti, cliccate mi piace e la nostra comunità si farà sempre più ampia. Io a questo punto ringrazio Pietro Lacorte in regia, ringrazio Giorgio De Luca che ci ha aiutato come sempre immensamente in redazione. Settimana prossima sarà un'altra puntata molto veneziana, perché il Festival di Venezia finirà pochi minuti dopo la fine della puntata della Rosa Purpurea, e noi saremo qui a raccontarvi il pre e domenica nella replica a raccontarvi il dopo del palmarès veneziano. È tutto, grazie e buona settimana da Franco D'Assisi.